Grazie Viola, tra poco ci vedremo in redazione. Grazie anche a Giulietta Far per il Future Film Festival che porta quest'oggi a conclusione la nostra rubrica In Scena. Come vi ho detto, oggi particolare importanza alle proiezioni e poi alla lodevole iniziativa, oltre che lodevole, di Teatro con Trasparenze, di Teatro Carcere. Talenti, fra l'altro, di partecipazione e di passione. Passione per la prima colazione. La prima colazione in diretta, il Breakfast Club, che giunge al termine puntuale. Zan and Camion, The Stiff Jazz. Appuntamento alle 11:30, procede il Bologna Jazz Festival anche con diverse sedi concertistiche. Ieri con Binario 69, per Ascoltati per Voi ci sarà l'appuntamento lunedì, ma intanto c'è il weekend. Nel weekend a Ferrara questa sera Joy Caldarazzo e insieme a Miguel Zenon, dopodiché domani molta curiosità per la formazione con Greg Osby. Ne parleremo dalle 11:30 alle 12:30 nel Jet Live con me stesso medesimo ed Alfredo Pasquali. Ma per le super mattiniere e i super mattinieri l'appuntamento va a lunedì alle ore 7, una nuova settimana assieme che inizia con i Magazine al Breakfast Club. Intanto vi auguro un buonissimo weekend, vi do appuntamento per chi vuole alle 11:30 e con un caloroso abbraccio e un ringraziamento per l'attenzione e vi auguro un buon ascolto. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon weekend, buona musica dal vostro William Piana. Ciao!